Come si sta a Tione? Cioè, come si trova a Tione? No, io a Tione sono nata e ci sto bene. E cosa ne pensa dei giovani? Di giovani? Ma io di giovani non posso dire niente, ho due figlie grandi già sposate e anche conosco le sue amicizie così e anche i ragazzi giovani. Ci sono ragazzi in gamba. E secondo lei i giovani cosa ne pensano degli adulti? Non lo so questo, è un po' difficile da capirli tante volte. Ah.